È una nazionale rivolta all'indietro, perché davvero l'idea che l'ossatura della nazionale, come ha scritto anche Sconcerti, sia composta dalla Juventus e dal Milan, cioè da due squadre che dominavano nell'altro decennio, l'idea che Inter e Roma insieme abbiano un solo convocato, cioè la metà dell'Udinese che ha lottato per la salvezza, è davvero incredibile. Ci vorrei sapere, Thiago Motta perché non può andare in nazionale, visto che ha il passaporto italiano? Non vedo cosa abbia in più in meno Thiago Motta, che giocherà la finale di Champions, rispetto a Gattuso che fa la riserva nel Milan. Certo. Oppure, visto che abbiamo fatto carte quasi false per Amauri, no? Però Amauri poi ha deluso, ma io ancora domenica ho visto i movimenti in campo di Balotelli. Ora, io credo che Balotelli, al di là di qualunque valutazione sulla persona, ha 19 anni, ma è un fenomeno che io non so, cioè devi avere veramente dei grandi campioni in nazionale per poterti permettere il lusso di lasciare a casa uno come Balotelli. Io provo a farti questa domanda: secondo te quanti giocatori della nazionale di Lippi schiererebbe Mourinho nella finale di Champions? Io forse Chiellini, non ne vedo altri, non l'ultimissimo Chiellini, ecco, però diciamo forse solo Chiellini. Quindi io sono terrorizzato. Io dico, arrivo a dirti, io anche uno come Totti, che ha 34 anni e che ha avuto una stagione difficile, ma te lo porti in panchina, cioè Italia-Spagna, quarto di finale, mancano 10 minuti alla fine, stai perdendo 1-0, magari la Spagna è stanca, fai entrare Totti, ti fa una punizione, un calcio d'angolo. Io dico, con tutto il rispetto, ma fai entrare Pepe, non è la stessa cosa. No. Poi certamente Pepe obbedirà agli ordini di Mastro Lippi, io non lo metto in dubbio, però signori Dio, abbiate pazienza. Il signor Lippi dovrebbe anche studiare la storia del calcio italiano. Vittorio Pozzo vinse 2 anni di fila il mondiale cambiando 9/11 della nazionale, non riconfermando quasi tutta la squadra di 4 anni prima con giocatori come Zambrotta, Gattuso e Grosso che fanno le riserve nei loro club. È un atteggiamento, secondo me, di una presunzione, di un distacco dalla realtà, di una mancanza di umiltà, che mi fa dubitare dell'intelligenza di un uomo sicuramente intelligente, che peraltro ha vinto molto anche grazie alle persone con cui lavorava.